Letture di Radio 24. Un vecchio detto dice: l'acciuga ha 12 virtù, ogni ora che passa ne perde una. Questo significa che le prime fasi di lavorazione devono essere effettuate in prossimità del luogo di pesca, come racconta Irene Rizzoli, responsabile ricerca e sviluppo di Delicious Rizzoli S.p.A. nel suo libro Alice o acciuga? Un viaggio alla scoperta delle curiosità legate al pesce azzurro più popolare, dall'antico Egitto fino ai giorni nostri. La pesca delle acciughe avviene nelle notti di scuro, ovvero nelle notti senza luna. Il pesce durante il giorno gira in grossi banchi che servono a confondere lo sguardo dei predatori, quali tonni e delfini. Poi, durante la notte, le acciughe piano piano si disperdono e l'abilità di un equipaggio di pescatori sta appunto nel trovare un banco sufficientemente numeroso di acciughe e ricompattarlo sotto l'imbarcazione. La ricerca può essere facile o può richiedere diverse ore e tanta pazienza. Quando cala il sole, l'oscurità avvolge tutto e il mare e il cielo si confondono diventando un tutt'uno. Le uniche luci accese sono quelle delle strumentazioni di bordo. Tutto il resto è notte e silenzio. L'unico a rimanere sveglio e vigile è il comandante. Tutto il resto dell'equipaggio si disperde nel buio e si confonde nel silenzio della notte. La notte è lunga e per certi versi anche strana, fatta di attese e di segnali da decifrare. Sonar ed eco scandaglio lavorano in modo complementare. Il sonar perlustra intorno alla barca, l'eco scandaglio guarda sotto la barca. Quando entrambi gli strumenti segnalano la presenza del pesce, l'oscurità sembra prendere vita e tutta l'attesa si fa di colpo promessa. Il comandante, studiata la traccia sugli strumenti, fa un giro di 360 gradi sul punto per verificare la forma e la struttura del banco. A questo punto viene accesa una luce rossa in cima alla barca per segnalare l'individuazione delle acciughe. Si getta l'ancora e si accendono le luci sul peschereccio principale. Da terra non è difficile vedere una lunga fila di lucine sull'orizzonte. Sono i diversi pescherecci che, individuato il banco, iniziano le loro operazioni. I fari delle barche sono puntati verso il fondo, in modo da creare una mezza sfera di luce sott'acqua e attirare le alici che nuotano in profondità, ricompattandole in banco. Nel corso della notte il capitano, monitorando il pesce, spegne progressivamente le luci, fino a quando il banco si è completamente riunito sotto la barca. A questo punto il capitano spegne le ultime luci sul peschereccio e viene accesa la piccola lampara a remi. Sono momenti di grande attenzione per tutto l'equipaggio. L'unico rumore che si sente a bordo è la voce del capitano che impartisce ordini rapidi e precisi al lamparista. Il banco di pesce si muove sotto la lampara e il peschereccio lo accerchia. La situazione di calma apparente precipita in pochi minuti. I movimenti del capitano si fanno concitati. È questione di attimi e il silenzio viene interrotto da un unico comando. Molla! La voce del capitano echeggia nella notte e con un fragore improvviso, uno sferragliare violento, la rete viene gettata in acqua. All'orizzonte il cielo inizia a schiarire. Non è ancora l'alba, ma non è più notte. La poppa della nave, ora sgombra dalle reti, è tutto un brulicare di persone che mettono in ordine e si preparano all'arrivo del pesce. Con un unico urlo metallico, la rete si chiude. La lampara ha spento le luci e ritorna verso il peschereccio. È questione di un attimo e l'alba si muta in giorno. Con il chiaro arrivano anche i gabbiani allettati da un pasto facile. Quando i galleggianti iniziano a riunirsi sotto la barca, la superficie del mare si increspa ed è un ribollire frenetico di code e di argento. Questo è uno dei pochi momenti in cui l'equipaggio sembra fermarsi e osservare, quasi a voler trattenere il fiato. È un momento estremamente forte. I galleggianti si fanno sempre più vicini e la promessa diventa realtà. Il sacco è chiuso e a questo punto la rete assume un altro nome, bonch. Le maglie del bonch devono essere molto sottili e fitte, questo perché la cattura avviene per insaccamento e non per ammagliamento, che potrebbe rovinare il pesce con abrasioni o ematomi. Sulla poppa del peschereccio vengono disposte ordinatamente le baie e dentro vengono rovesciati ghiaccio e acqua fredda. Finita la raccolta del pesce, il capitano punta verso il porto e ad accompagnare il peschereccio c'è ancora il vociare allegro e impertinente dei gabbiani. Il rientro al porto è anch'esso una fase estremamente delicata. C'è un vecchio detto che dice: l'acciuga ha 12 virtù, ogni ora che passa ne perde una. Questo a significare che con il trascorrere del tempo,

Tutta la polvere visibile dovrebbe essere rimossa con uno spray antipolvere e con un panno preferibilmente antistatico e in microfibra, che andrebbe lavato dopo ogni utilizzo, senza usare ammorbidenti che ne ridurrebbero l'efficacia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Tim Jones, Dust to Dust, dal numero di maggio del mensile Record Collector. Se per gli amanti della musica l'ossessione per la polvere è solo un modo per proteggere la loro preziosa collezione di dischi, per altri si tratta di una vera e propria malattia che, come tale, può essere curata. Mia madre soffre di disturbo ossessivo compulsivo. La sua malattia gravita tutta intorno alla paura della contaminazione. Qualsiasi oggetto sia sporco o impolverato, e in particolare la sabbia, innesca la sua ansia. Non tocca gli oggetti che considera sporchi e gli oggetti identificati come sicuri vengono ripetutamente puliti. Quando sei figlia di una persona con il DOC, finisci sempre per fare cose che alleviano le paure del genitore. Gli esperti descrivono questo atteggiamento come complice. Il mio comportamento includeva aprire le porte in modo che mia madre non dovesse lavarsi le mani di nuovo. Altre volte, alla cassa del supermercato, dovevo spiegare alla commessa il motivo per cui gli acquisti non potessero toccare il nastro trasportatore. Nei momenti peggiori, tornata da scuola, dovevo togliermi i vestiti sulla porta di casa. Questi venivano poi infilati ognuno in un singolo sacchetto del supermercato, come fossero prove di una scena del crimine. Venivano poi portati in tintoria e fatti lavare a costi esorbitanti. Era tutto sporco. Il disturbo ossessivo compulsivo di mia madre ha avuto un impatto stravolgente sulla mia crescita. Gli amici non potevano venire a trovarmi a casa, mai. Gli sport, fuori casa, quindi sporchi, venivano ostacolati. Le vacanze in spiaggia non erano neanche da considerare perché, beh, ovvio, sabbia. So meglio di chiunque altro quanto sia tremendo il DOC. Per cui potete solo immaginare quanto mi faccia piacere il fatto che l'ho sviluppato anch'io. Il mio DOC è molto meno grave di mia madre e non è incentrato sulla pulizia. Ho dei numeri sicuri, il 5 e il 7, e sento il bisogno di condurre la mia vita unicamente seguendo i multipli di questi numeri. 5 bocconi di pizza alla volta, 7 sorsi di Coca-Cola e poi altri 5 morsi alla pizza. Se sbaglio a contare, vado nel panico e ricomincio da capo. Per fare ammenda, devo anche toccare il tavolo 7 volte con il quinto dito della mano destra. Fortunatamente, grazie alla psicoterapia cognitiva comportamentale e in particolare all'esposizione con prevenzione della risposta, sono sotto controllo. Ho problemi soltanto nei periodi di stress, solitamente quando ho pressioni al lavoro o nella vita privata, ed è lì che ricomincia la conta. E l'ultima cosa che vorresti quando sei stressato è doverti alzare da letto 5 volte in piena notte per andare a toccare una porta 7 volte. Jim Bolton, consulente psichiatra, mi dice che circa un terzo dei casi di DOC nasce dallo stress. Ma c'è anche il fattore genetico. Secondo uno studio, il DOC si trasmette nelle famiglie e il 40% delle persone che presentano sintomi legati al DOC hanno un familiare stretto che ne soffre. Non si sa se questa percentuale più alta del DOC familiare sia causata da fattori ambientali o genetici. Ho spesso incolpato mia madre del mio disturbo, convinta che, diventando sua complice, avevo sviluppato anch'io pensieri ossessivi. Come conseguenza della colpa che le attribuivo, una parte di me voleva credere che il DOC fosse genetico, che fosse stato il DNA di mia madre e non il suo comportamento ad avermi passato il suo disturbo. Il dottor Eric Davis, psicologo ed esperto di DOC, è convinto che sebbene ci sia una inclinazione genetica al DOC, il fattore più di impatto è ambientale. Per riassumere, dice che il disturbo ossessivo-compulsivo deriva dal tentativo di calmare l'ansia e comunicare il proprio stress cercando di controllare gli eventi. Ci si sente fuori controllo e si cerca di rettificare queste sensazioni. Possiamo fare passi avanti anche solo smettendo di rappresentare il DOC come una semplice necessità di avere tutte le matite temperate bene o di essere ultraordinati. Detesto le persone che si autodefiniscono super ossessivo-compulsive quando vogliono far vedere le scarpe pulitissime o quando si sentono in dovere di spiegare il perché le loro collezioni di vinili sono in ordine alfabetico. Avere una reale forma di disordine ossessivo-compulsivo significa rifiutare di abbracciare tua figlia il giorno del suo compleanno perché hai paura che sia sporca. Non si può incolpare qualcuno solo perché ha un disturbo mentale, anche quando la situazione diventa frustrante perché stai cercando disperatamente di non ridere di fronte a tua madre che cerca di chiudere la portiera con il piede perché non vuole toccare la maniglia. Sentirsi in colpa per qualcosa significa esserne responsabili e il DOC non è colpa di nessuno. È una malattia e spesso è incredibilmente debilitante, ma con il sostegno giusto è curabile. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Shirin Kamalvand Da dove arriva il mio disturbo ossessivo compulsivo, pubblicato il 27 aprile sulla rivista online Vice. Il modello economico messo in atto dall'attuale presidente cinese Xi Jinping è stato caratterizzato fin dall'inizio dalla combinazione tra uno Stato autoritario e un'economia capitalista orientata verso il mercato. Ma quanto a lungo può reggere un modello che guarda verso l'Occidente ma che continua ad applicare i vecchi sistemi basati sull'oppressione politica e sulla segregazione sociale? Il crescente numero di ricchi cinesi che, avendone la possibilità, scelgono di andare all'estero dovrebbe rappresentare un chiaro segnale di allarme. Per rettificare l'enfasi dei suoi predecessori sulle riforme orientate al mercato, il presidente Xi ha messo di nuovo la politica a comando dell'economia. Mettendo ripetutamente in guardia dall'occidentalizzazione, Xi ha sottolineato l'ideale nazionale unificato del sogno cinese e ha permesso all'asse sicurezza-propaganda di rafforzare il controllo ideologico e restringere le espressioni delle differenti opinioni politiche, prendendo forti misure per rinforzare il partito centrale e l'autorità del governo, ha dato vita a un nuovo e potente piccolo gruppo di comando che, al fine di bypassare la burocrazia governativa, vede lo stesso Xi Jinping a capo. Guardando a Mao Zedong quale fonte di ispirazione, il presidente ha lanciato la più grande campagna per combattere la corruzione e far rivivere la tradizione delle sessioni autocritiche, in cui i dirigenti identificano i fallimenti reciproci. Un gran numero di componenti senior e di ufficiali governativi, o di grandi tigri, come lui stesso li ha chiamati, sono stati eliminati. Alcuni di loro erano oppositori politici. Descrivendo Mao come una grande figura che ha cambiato il volto della nazione e ha condotto il popolo cinese verso un nuovo destino, Xi è emerso come un campione del potere del partito di Stato. Il modello cinese è diventato il simbolo dell'orgoglio nazionale tra gli intellettuali nazionalisti cinesi e gli ufficiali governativi. Ha attratto anche i leader di alcuni paesi in via di sviluppo, in cerca di una ricetta alternativa ai modelli del libero mercato e delle elezioni democratiche per crescere velocemente e avere una stabilità maggiore. Non di meno, la particolare combinazione tra uno Stato autoritario e l'economia capitalista porta con sé delle importanti limitazioni per la sostenibilità a lungo termine del modello. Nonostante sia innegabilmente impressionante, il modello cinese è largamente associato all'oppressione politica, alla segregazione sociale, all'inquinamento e alla disintegrazione morale. Senza ulteriori riforme, tra cui la creazione di controlli istituzionali sull'autorità di governo, le conseguenze negative del modello cinese non possono far altro che peggiorare. Man mano che il costo sociale dello sviluppo diventa insostenibile, anche chi ha beneficiato della rapida crescita economica inizia a non considerare più adatto l'attuale modello di sviluppo. Questo trend è sempre più evidente nelle dinamiche migratorie dei nuovi ricchi cinesi, i quali scelgono di andare all'estero o di mandare il proprio denaro fuori dalla Cina. E se la legge limita a $50,000 per individuo la cifra di detenzione in valuta estera, i cinesi più benestanti hanno trovato una serie di alternative che permettono loro di muovere abbastanza denaro fuori dal proprio paese e ottenere attraverso gli investimenti anche la green card statunitense. Secondo i dati del report annuale sulle migrazioni cinesi del 2014 pubblicato dal Centro per la Globalizzazione Cinese, nel 2013 tre quarti dei visti statunitensi legati a investimenti sono stati rilasciati a cittadini cinesi, con 6.124 persone che hanno avuto attraverso questo schema la green card. Si tratta di 8 volte tanto il numero di coloro che l'hanno ottenuta nel 2010. La Cina è il quarto paese in termini di partenze e di flussi migratori. Xi Jinping, prima ancora di far capire agli altri che ha trovato un modello di modernizzazione per il paese, deve cercare di convincere questi cinesi benestanti che stanno lasciando la Cina. Quelli che avete appena ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo «Ma i cinesi che possono scappano» di Suisheng Zhao, direttore del Centro per la Cooperazione Cina-Stati Uniti presso l'Università di Denver, dal numero di maggio della rivista Formiche.